scandescenza come entra ogni giorno d'indipendenza. In questa guerra sono il primo della resistenza. Non voglio per niente al mondo stare fermo e far semenza. Ok. Forse torneremo al punto di partenza. Ma intanto ci abbiamo provato, è stata un'esperienza che non va dimenticata e ricordata dalla coscienza. Coscienza standard, stando stento, stendo lo standard intendo, lo rigiro finché tu lo renda. Se non renda, che tu pretenda. Sull'agenda segna che ti prendo, questo testo è un ennesimo emendamento. Respiro stento, tentato da un vento, di scrivere non lamento, attento. Ascolta bene l'undicesimo comandamento, a nome Switchblade, Knife, Rim, scatto. Troppo tatto, chiuso con un tasto d'impatto. Da catastro, fai felicità tutto ad un tratto, facciamo un patto. Parto portato a portata da un portento dal porto che ti porta porta a porta, parlando di un partito. Punto mio, ne sono partito. In certi parti parto partendo da parte, per certa gente la musica è un'arte, per altri lavoro oppure una parte della società, terra rossa come Marte. Voglio fare il re? Allora non startene in arte, a parte questo resto è scritto su delle carte, cuciamo le rime fra di loro come le sarte. Io, prova a dirmi se questa non è arte. Chi cambia ideologia come cambiare vestiario, porta in mano un rosario, si sente re dello scenario, seguendo uno che si proclama vicario, vicari di Dio, polari e solari come iscari. Aziende di aggrare, chi fa gli altari, spari, ripari, poi riparti e scompari, ti fermi, ci pensi a farlo, ti impari, meglio la vita della morte, questo pensi magari, le rime stanno a noi come gli uti stradivari, conta quello che dici, non conta come tu appari, vai man, dobbiamo continuarla, in alto, dobbiamo riportarla. Ok, allora vado, corro come un pazzo, non cado, se succede mi rialzo, gli ostacoli li supero con un balzo, chiamo soffisso, non disso, prolisso come un soffisso, origine greca, rivendicatore non si spreca, c'è chi imprega e chi prega la sua strega di stregarlo a letto, la sera do un colpetto, acuto come un da di petto, nella stupetta, aspetta, bevo qualche grappetta, questo demone non ha etichetta, etichetta del prezzo, senditi il primo pezzo e vedrai quando ci sentiamo in mezzo, sterzo, sterzo, perso in questo che il quinto e non il terzo, e non il terzo, e non il terzo. E così via. Rime da coltello serramanico. Blade Switch Knife. Guarda che era Blade Knife Switch. No, Switch Blade Knife. Knife Switch Blade, ne sono sicuro. Ti dico che era Switch Blade Knife, cazzo. E io che cazzo ho detto finora? Faccio hip hop ma volevo fare dancehall solo perché non avevo più magliette small. Vorrei tanto poter fare un pezzo soul, mi accontento di questo fottutissimo flow. Non sono a New York col cadavere di Biggie Smalls. Con la musica non si scherza, siamo come un rice bowl. Strappo, stacco, stappo, un tappo, scappo dallo studio cercando lavoro all'acqua. Rivendico il suono, faccio un buco nell'ozono mentre tu segui un promo su un prodotto con un buono buono di vendita ad uso exclusive mono. Monopolizza il mondo. Stono su una base. Arriva in questo modo. Arriva nelle vostre case. Suono di logo. È il suono di frase. Scappa finché sei in tempo, sarà un tormento. Rivendicando tutto ciò che c'è intorno sento. Che il suono nelle casse spacca e quelli non mi pento. Di mi ci tuffato dentro e non uscirne perché cemento. Rimane incastrato qua, c'era fuoco lento e non mi lamento. Il mio disco ti presento e sta attento che non mi sono spento. Cazzo, non sei stanco? Oh cazzo sì, ti giuro. Pausa caffè? Magari, dopo tocca a me. L'hip hop non è tutto io gangster, non ci vedi. Non reggi il suono che fuoriesce dalle casse. Calmo, siedi. Col cazzo, ora tiro avanti veloce, resti in piedi. Riprendo questo progetto e non mi credi? Lo vedremo che sarà felice e avrà dato qualcosa. Ti daremo rime calde come una giornata fosca. Cazzo, calda no, mica sarà tutta appiccicosa. Rime composte. Organiche. Contro la nitrocellulosa. Reduci delle operazioni come medici. Chiedaci. Frenaci, siamo movimenti sismici. Intimi quanto le foche nei mari antartici. Intimi quanto mantide dall'equatore tropici. Fossimo limoni, ci spremeresti fin domani. Ma siamo amici, spremiamo i testi sulle basi. Le rime scattano. Tronca. Ne parlano. Ridono. Cazzo c'entra? Ridono. Sempre peggio. La Trieste triplo. Delle rime e San Ventriloqui. Il pompiamo come il sangue dei ventricoli. Tu il rap si dettagli odio. Ridicoli. Ho appena imparato a muovermi in questo ambiente. Conosco poca gente. Cacciarimi violente. Che nessuno sento se le stampa nella mente. Sai cosa? Un vaffanculo a tutti quanti. E più siete? Vi ci gusta mandarvici. Un ultimo pensiero, una stanza da dire. Cazzo, non c'è tempo. Il pezzo sta per finire. Ma ne sei proprio sicuro? Cazzo sì. Mi fa male pure il culo. Eppure non c'è nessuno oltre a noi. Io personalmente non sono stato. Quindi cazzi tuoi. Idiota, non era ciò che volevo intendere. Era solo per dire che il pezzo sta per chiudere. Senz'altro è stato buon ascolto. Forse non è per niente. Un saluto a tutti. Chi se muore si risente. Ma dura tanto tu saluta questa gente. In effetti uomo non so se finirà mai. È finita veramente Switchblade Knife. Knife. Blade, knife.